重音 Monaca Monaca Rondine Rondine Aquila Aquila Sedano Sedano Ciliegia Ciliegia Asparagi Asparagi 练习 Roma Roma Milano Milano Torino Torino Genova Genova Napoli Napoli Venezia Venezia Padova Padova Verona Verona Pisa Pisa Firenze Firenze Perugia Perugia L'Aquila L'Aquila Lunedì Lunedì Martedì Martedì Mercoledì Mercoledì Giovedì Giovedì Venerdì Venerdì Sabato Sabato Domenica Domenica Necessità Necessità Possibilità Possibilità Volontà Volontà Facilità Facilità Difficoltà Difficoltà Oscurità Oscurità Velocità Velocità Povertà Povertà Gioventù Gioventù Comodità Comodità Circolo Circolo Simile Simile Termine Termine Pagina Pagina Vedova Vedova Vegeto Vegeto Brindisi Brindisi Passero Bassero Estero Estero Crescita Crescita Sciabola Sciabola Ospite Ospite Vendita Vendita Asino Asino Giudice Giudice Questa lampada è magnifica. All'estero, sabato e domenica non si lavora. L'ospite è nella camera da letto. Il giudice fa una critica logica. La gondola. 谚语. Proverbi. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. L'abito non fa il monaco.